Puro stile Motown, Sisterhood is Blooming, puntata numero 21, qui dagli studi di Radio Onda Rossa, vi dà il benvenuto in questa oretta che passeremo insieme, minuto più, minuto meno, ascoltando un po' di nuove uscite di musica indie al femminile. Quella che vi ho fatto ascoltare, insomma, è un artista che si chiama Mozilla, non come il browser ma con la E al posto della I dopo la Z, ed è una tipa, insomma, che generalmente fa musica un po' troppo pop per i miei gusti, ma questo pezzo, che insomma è una cover che sicuramente conoscevate, che si chiama Another You, è il suo contributo a un album che sta per uscire per la Motown, che uscirà a luglio, di Brian Holland, il leggendario Brian Holland. Quindi insomma mi sembrava una versione così bella, così appassionata e con una voce così azzeccata per lo stile Motown, che ho voluto farvela ascoltare. Allora, abbiamo una playlist molto piena. Al volo vi ricordo un po' i nostri contatti: 0649 1750, per squillare o farvi sentire qui in radio. Ora abbiamo anche il servizio SMS 342 357 4357, quindi se ci volete messaggiare insultandoci, come diciamo spesso qui all'MFLA in diretta, fatelo e vi possiamo anche, diciamo, dare un feedback immediato, quindi ci possiamo insultare reciprocamente al volo. Intanto in sottofondo state ascoltando Malaria, che è una leggendaria band, all female band degli anni 80, molto sottovalutata, a cui dedicherò qualcosa nelle prossime puntate, perché insomma noi ci dobbiamo acculturare molto di più sulla nostra storia musicale al femminile. Prossima band, One Little Plane, giovanissimi e giovanissime, in realtà diciamo il progetto ruota intorno a questa artista folk che si chiama Catherine Bint, di cui so pochissimo, perché pochissimo c'è sulla rete di lei, anche perché ha fatto un paio di cose, un EP nel 2008 che si chiama Until e una cosa che è uscita, un altro EP che è uscito da pochissimo, da un paio di settimane, che si chiama Into the Trees. Hanno parlato di lei anche Radiohead e quindi insomma questo, come sapete, come al solito, ha generato un certo scalpore. Io ho ascoltato da Bandcamp l'album, da cui potete scaricarlo gratuitamente, quindi vi consiglio di andare. Il pezzo che ho scelto per voi dalla sua proposta di One Little Plane si intitola She Was Out in the Water. She was out in the water, she was out in the rain. She was singing a song no one else could hear her play. She was shivering from the kindness of a boy she wasn't supposed to see. She was walking into water, she was drifting in the sea. She was risking all the things she couldn't quite leave. She was raised in the water, she was raised in the sky. Maybe I'll sing you a line, he said from some distant star. Honey, I don't believe in majesty or things that you compare. Just wanna be here now, tasting the salty sea air. Just wanna be here now, tasting the salty sea air. Questa era One Little Plane, una simpatica vocina, insomma, che secondo me farà parlare di sé non appena avrà sistemato delle cosine. Forse avrete riconosciuto, o forse no, il basso dei Radiohead in questo pezzo che ha registrato. Seconda band di oggi, hanno fatto abbastanza parlare di loro. Si chiamano Beast Make Bomb. Fanno simpatico fuzzy pop o fuzzed out pop, come si dice, belle melodie, molto divertenti. Loro sono molto giovani. Alla chitarra c'è una bravissima chitarrista e l'altra chitarra è alla voce. Basso e batteria, una band molto semplice, molto stile punk. A me non dispiacciono, mi divertono e penso che il loro album appena uscito è molto molto fresco. Vi faccio ascoltare senza indugio, visto che il tempo corre, un pezzo tratto dal nuovo, il loro nuovo e primo EP omonimo. Loro sono Beast Make Bomb. Il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola Rough It Out. I had already told myself that the way in between quindi siamo saltati dalla Motown, dalla vena Motown alla vena un po' più rockettara e restiamo su questo genere. Intanto un saluto a chi ci sta commentando e salutando via Facebook sul nostro gruppo Sisterhood is Blooming, e anche un saluto grandissimo a chi ci segue in streaming su www.ondarossa.info. Vi devo ricordare l'SMS perché altrimenti non lo imparerete mai a memoria: 342-357-4357. E la prossima band che vi faccio ascoltare è una band che vi ho presentato anche l'anno scorso. Loro sono due giovanissime ragazze, super noise, quindi insomma mi piacciono un casino, Jasmine White Gloss e Laura Lloyd, che hanno cominciato questa band, hanno messo su questa band soltanto 3 anni fa, grandissimo successo per gli appassionati del genere, appunto per il loro primo album. Sono fuori con questo EP interessantissimo appena uscito, il cui titolo è Negaverse, la stessa etichetta che produce Best Coast, che ascolteremo dopo, Marissa Nadler e altre artiste che abbiamo ascoltato e che ci piacciono, sia la Mexican Summer, che ci piace tantissimo. Andate sul sito e scorrete le artiste e gli artisti che propongono, perché sono davvero super interessanti. Loro sono canadesi, vi ricordo il nuovo EP Negaverse, il pezzo che ho scelto per voi delle No Joy si intitola Junior. Quanto mi piacciono a me queste chitarre distorte in feedback, che mi ricordano quando ero piccola e provavo a suonare. Lo so che ve lo ricorda pure a voi, quindi insomma non fate finta di niente, che ci abbiamo tutte la stessa età. La prossima band, visto che oggi vado super velocissimo, ho tante cose da farvi ascoltare. Loro si chiamano Chairlift e diciamo la base di questa band, intorno alla quale poi ruotano altri musicisti, sono Caroline Polachek, che è la autrice dei brani, la vocalist e anche la al sintetizzatore, e Patrick Wimberly, che invece suona il basso, la batteria, insomma, e all'occorrenza le altre cose per le loro registrazioni. Hanno un paio di EP all'attivo, più questo diciamo album appena uscito che si chiama Something, per la Young Turks. La Young Turks è una delle etichette che io seguo abbastanza, giovanissima etichetta britannica nata nel 2006 e che tra le altre cose, tanto per dirvene una, diciamo vi propone gli album degli XS che tanto vi sono sicuramente piaciuti. Chairlift saranno in concerto, non mi ricordo la data, ma andatela a cercare, al festival che ci sarà il prossimo weekend a Villa Medici. Quindi se vi piace quello che vi faccio ascoltare, secondo me vale la pena, potete anche andarla a vedere in concerto questo fine settimana. Il pezzo che vi faccio ascoltare è appunto dall'album da poco uscito per la Young Turks, che si intitola Something. Loro sono Chairlift, il pezzo si chiama I Belong in Your Arms. Chairlift, come vi dicevo, informatevi, c'è questo bel festival, magari dopo apro la loro pagina e vi do qualche altra informazione in più. Questo weekend a Villa Medici, i prezzi sono anche abbastanza accessibili, non credo che si vada oltre 15 euro, quindi insomma alcune delle cose che propongono sono veramente molto interessanti. Anche l'anno scorso è stato molto bello. Non so se vi siete accorti e accorte che è uscito il nuovo album The Gossip, che insomma la super gettonata Bad Ditto, che insomma qualsiasi serata un po' più pop facciamo in giro ci viene richiesta credo almeno 50 volte per serata. Voi lo sapete chi è Bad Ditto, no? Lesbica, attivista, che ha raccontato nelle canzoni, mettendoci la faccia, negli articoli che ha scritto un po' su tutte le riviste, sul web, di se stessa, del fascismo, di quello che lei chiama il fascismo del corpo e della taglia zero, e quindi orgogliosamente dice: io ho fatto sì, ho fatto in modo che accettassero la mia taglia, che insomma è una bella taglia notevole. Bad Ditto è super sexy, affascinante, divertente, autoironica, simpatica, ed è veramente uno dei personaggi pubblici, una lesbica, perché lei ci tiene al fatto di dirlo quando parla di se stessa, veramente fantastica. Quindi i gossip sono passati a una etichetta dopo Key Rock Stars, dopo Key Records, quindi aver fatto un giro notevole nelle etichette indipendenti americane, adesso si sono buttate su una major, la Columbia Records li ha prodotti. Devo dire che un po' si sente l'album. Io non ho mai amato tantissimo i gossip, ma quest'album è decisamente virato super fortissimamente sul pop. Il nuovo singolo che è uscito da pochissimo, dal loro nuovo album, si chiama Move in the Right Direction, e ve lo faccio ascoltare, i gossip. Allora, intanto vi dico come si intitola l'album The Gossip, che ho dimenticato di dirvelo, si chiama Out of Frequency, e insomma, datemi ragione, voglio dire, è pop, quindi sicuramente ce lo faranno ascoltare fino alla noia durante i giorni del Pride, in tutte le salse, in tutte le versioni remix, quindi insomma, cominciate ad abituarvi. Sono andata a cercare per voi il programma culturale del festival che vi dicevo, dove saranno presenti Chairlift ad aprire proprio il festival. Lo potete trovare su www.villa villamedici.it e andate nella sezione eventi, quindi lì vedrete appunto in dettaglio il programma culturale di Villa Aperta, terza edizione, che credo cominci il 2 giugno, se non ricordo male. Primo il 2 giugno, non riesco a guardare. No, il 31 maggio è il primo giorno, quindi insomma andate a farci un giro e guardate che cosa vi interessa. La prossima band è un gruppo musicale dance pop alternative rock danese. La cantante è un personaggio che dovete assolutamente guardare, quindi cercate qualche video. Loro si chiamano The Asteroids Galaxy Tour e lei si chiama Mette Lindberg, e sono molto molto divertenti. Hanno appunto questa ispirazione dance pop, anche se nell'ultimo album rispetto al precedente hanno fatto sì che durante le registrazioni partecipasse anche una sezione di fiati, che in genere accompagna soltanto i loro live, e quindi l'album ha preso un respiro molto più vintage, molto più anni 70. Mi direte se siete d'accordo. Io vi faccio ascoltare il pezzo che si intitola Major. Loro sono di Asteroid Galaxy Tour. Sembrava di stare in un film un po' tarantinesco, no? Che faceva il verso agli anni 70. Loro sono molto carini secondo me, quindi insomma andatevi ad ascoltare, soprattutto su SoundCloud c'è, vi ricordo il nome che è abbastanza complicato, di Asteroids Galaxy Tour, quindi cercateli e andate a vedere le cose che hanno fatto, che sono veramente molto molto carine, anche come questa Lady Jesus che sentite in sottofondo mentre vi parlo. La prossima band è un trio di voci, di un violoncello, una chitarra e vari altri strumenti, percussioni, fisarmonica, insomma quello che capita. Loro si definiscono soul, folk, pop, e sono appunto tre ragazzi, un ragazzo e due ragazze che si sono conosciuti, con la passione della musica ovviamente, che si sono conosciuti durante una di quelle serate open mic, insomma del new yorkese in qualche club di New York, non so quale, cioè insomma il microfono aperto, il palco per chi vuole salire ed esibirsi, loro si esibivano ognuno per conto suo, però si sono ascoltati reciprocamente, cosa buona e giusta, si sono piaciuti reciprocamente e hanno pensato bene di mettersi insieme e fare una band. Si chiamano Jocelyn McKenzie, Emily Hope Price e Jeremy Stiles, e quindi secondo me hanno buone chance di portarla a casa questo loro album. Il titolo della band che hanno formato è Pearl and the Beard e il pezzo che ho scelto per voi si intitola Hot Volcano. And I... like, I like better, better, better. Take me down, down to the old volcano. Tie me up, better, better. You're better. My little hot volcano. E allora, questa era Hot Volcano della band Pearl and the Birds. E stiamo andando veloci, però insomma ci siamo dentro. Lo sapete che appunto da un paio di settimane la trasmissione Sister Who Is Blooming, la vostra Sister Who Is Blooming più che la mia, anziché chiudere il martedì femminista e lesbico autogestito, lo apre, che è insomma una bella novità, è un bel cambio di scenario per quanto mi riguarda. Vi ricordo intanto i prossimi appuntamenti, prima insomma di questi altri 10 minuti qualcosina con voi. Dopo Sister Who Is Blooming ci sarà dalle 18:15 alle 19:30 Atti e Misfatti, appuntamenti, comunicati, iniziative, idee, azioni di femministe e lesbiche in Italia e a volte anche nel mondo. A seguire il GR serale, lo spazio comunicazione, dalle 20:15 alle 21:15 il mini pimer, la maxi trasmissione, che questa settimana appunto si intitola Vogliamo Tutto, Roma Pride 2012. E in studio saranno ospiti del mini piper le compagne di Orgogliosamente. Dalle 21:15 alle 22 l'appuntamento del martedì, a cui non potete mancare, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. La trasmissione è quella del coordinamento lesbiche romane. E poi, come non sottolineare lo switch che abbiamo fatto, il passaggio che abbiamo fatto con Spirito di Patata, dalle 10 alle 11 questa sera, a chiudere il martedì femminista e lesbica autogestito, Spirito di Patata, trasmissione di femminismo pop. Prossima scelta. Sono molto contenta di farvi ascoltare questo brano e di farvi ascoltare quest'artista, che insomma è un'artista che io e penso anche molte di voi abbiamo nel cuore. Lei è Nene Cherry, che insomma, voglio dire, chi non ricorda Rolex Sushi dell'89, è passato un bel po' di tempo da quello splendido album. Nene Cherry ha fatto tante cose dall'89 ad oggi, e diciamocelo, personaggi come Mia potrebbero esistere se non fosse esistita Nene Cherry? Secondo me assolutamente no. Il nuovo progetto di Nene è insieme a un trio jazz svedese, quindi fantastica già l'idea. Loro si chiamano The Thing, la cosa, e avevano diciamo già ottenuto un notevole successo negli anni scorsi, appunto come trio jazz, molto sperimentale, molto interessante. Loro tre musicisti vengono da influenze e diciamo da idee musicali molto diverse, insieme appunto hanno messo su una band molto molto originale nella interpretazione del jazz che danno. Il nuovo progetto appunto li vede accompagnare, sostenere, sorreggere Nene Cherry, e l'album, il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola The Accordion. Golden glitter for half of his niggas, take him out the picture. The other half is rich and don't mean a shitter. Villain mixture between both with a twist of liquor. Living off borrowed time, the clock tick faster. That'll be the hour they knock the slick blaster. Dick dastardly and monthly with slick laughter. A gunfight, they come out to cut the mix master. I see cold, nice to be old. Y2G steep twice to threefold. He so scrolls, lo and behold. glitter. If I have half of his niggas, take him out the picture. Take the other half as rich and don't mean a shit. Feel a mixture between both with a twist of liquor. Chips to put some up there, tasted like truth or dare. When he have the mic, it's like the place to get like, ah, yeah. It's like they know just what's about to happen. Just keep your eye out like keeping an eye, Captain. Is he still fly guy clapping if nobody can hear it? And can they testify for him in the spirit and live in the cloud? True guys, giving you all nothing but a kick like two bras. Got more lyrics than a church, got all Lord. And he hold a mic in your attention like two songs, or even one with two blades on it. Hey, you don't touch the mic like it's got AIDS on it. It's like the end to the mean. Keep your gold, glory, and glitter. Keep your glory, gold, and glitter. You know who's the illest ever. You know who's the ever living clever, like the greatest story told. Why he brings down his own needles and gets more cheese than Doritos, Cheetos, and Fritos. Slip like 40 in your first and last step to playing yourself like an accordion. When he had the mic, you don't go next. Need pussy cats like wide hoes, need Kotex. Exercise index won't need Bowflex and won't take the one with no skinny legs like Joe Tex. Keep your glory golden glitter. Quanto vi è piaciuto questo pezzo? A me un casino. Vi ricordo il titolo dell'album, che appunto espone il progetto di Nene Cherry e questa band, questo trio svedese che si chiama The Thing, che giustamente si chiama The Cherry Thing. La prossima band è una band a cui io sono molto affezionata. È uscito il loro ultimo album per la Mexican Summer, anche loro, come vi dicevo prima. Loro sono appunto la band della Bethany Cosentino, una delle chitarriste e cantanti più famose in questo momento nell'ambiente indie. Hanno sbancato tutto, hanno suonato ovunque, in qualsiasi festival estivo, invernale, autunnale, insomma loro erano tra le band più gettonate. Molto spesso sono criticati perché insomma un po' semplici, un po' così, un po' pop. Secondo me questa è la loro forza, sono album leggeri che scivolano via, che si ascoltano facilmente e quindi che non pretendono di essere, diciamo, dei capolavori, ma che sono divertenti. Secondo me questo è l'album dell'estate, quindi il pezzo si intitola The Only Place. Loro sono Best Coast. Sit around Avete aperto i finestrini, sì? Avete fatto entrare il vento, vi siete scompigliate i capelli. Ecco, esattamente quello che devono fare con la loro musica è Best Coast, né più né meno di questo, e divertirci. Ora, io qualche minuto prima chiudo la trasmissione perché, insomma, il pezzo che vi faccio ascoltare dura 5 minuti, quindi, insomma, sono rispettosa dei programmi che seguono e quindi, insomma, cerco di starci dentro il mio tempo. Vi ho ricordato gli appuntamenti del martedì femminista e lesbico autogestito, che va avanti fino alle 11 di questa sera. Io vi do appuntamento a fra due settimane con Sister Who Is Blooming, quindi, insomma, ricordatevi il nuovo appuntamento, il nuovo orario, 17:15, 18:15, per ascoltare le mie proposte, per ascoltare un po' di musica appena uscita e per raccontarci un po' di band al femminile che, insomma, secondo me vale la pena di ascoltare, di scaricare, di comprare, di andare a vedere al vivo soprattutto. La band con cui vi lascio sono le mie preferite, i Beach House. Vi ho fatto ascoltare in anteprima il primo singolo del nuovo album che è uscito, che si intitola Bloom. E intanto in queste ultime due settimane sono riuscita a leggere, insomma, è stato possibile leggere recensioni sul web, cartacee. Tutti sono super entusiasti di questo album e anch'io, sinceramente. Non ho problemi a dire che secondo me è l'album più bello uscito negli ultimi mesi, forse dall'inizio dell'anno. Quindi bando alle ciance, vi saluto, vi do appuntamento fra due martedì e il pezzo che vi faccio ascoltare per questa volta si intitola On the Sea. Loro sono Beach House. Wouldn't you lie?